Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24. Buongiorno Berlusconi in Confindustria. La Confindustria dice a Berlusconi, la Marcegaglia, presidente di Confindustria, fissa una sua piattaforma, poi interviene Berlusconi. Ieri, dopo la riunione di redazione, vista la noia generale in cui si vive oggi di, mi sono messo davanti al computer e ho guardato in diretta Berlusconi che parlava. Non mi è sembrato così straordinario. Ero lì per vedere una Vicenza numero 2, capire se appunto avrebbe fatto dei numeri particolarmente. No, insomma, sì, vabbè, battute qualche volta un po' spesse, come si dice al nord, e poi che cosa? E poi, vabbè, un rendiconto di quelli molto, diciamo, ruspanti dell'attività del governo, con applausi per i ministri. Insomma, lui è un po' il re che nomina i suoi, o il sultano meglio, che a partire dal gran visir Tremonti in giù nomina i suoi ministri, che sono stati anche molto applauditi. E poi vabbè, un numero sul Parlamento e sui giudici, ma niente di così profondamente nuovo. Che si debbano diminuire il numero dei parlamentari è consenso generale, universale, lo dicono tutte le commissioni sulle riforme, lo dice la sinistra, lo dice la destra, è una gara a ridurre il numero dei parlamentari, che rimane naturalmente sempre lo stesso. E Berlusconi ha detto la battuta di Churchill: il tacchino non ama che venga anticipato il Natale. Ma insomma, non c'era la Vicenza 2, non c'era la volontà di ferire le istituzioni. Invece, ormai ogni volta che parla Berlusconi, anche se siamo in campagna elettorale, bisogna tenerne conto, nasce tutto. Naturalmente è un peccato, perché invece Emma Marcegaglia delle cose le ha dette, insomma, no? La Confindustria un certo diritto di tribuna ce l'ha. Questa era la sua assemblea annuale, quella importante, quella solenne, e questa idea che bisogna fare le riforme non mi sembra così irrilevante, ecco, anche perché le riforme si possono effettivamente fare. Le grandi riforme di cui ha bisogno questo paese, dalle liberalizzazioni alla riforma delle pensioni a tante altre, mentre ridurre il numero dei parlamentari, beh, insomma, si vedrà, si aprono le scommesse. Comunque, parliamo di tutto questo con Enrico Cisnetto, giornalista, scrive sul Messaggero e sul Foglio, docente di finanza alla Scuola di Giornalismo dell'Università Luis? Mi piace dirla con l'accento spagnoleggiante. Luis. Ha scritto per la Spelling e Kupfer, che però quando pubblica Panza io chiamo sempre scherzosamente Sperling e Kapler, il gioco dell'OPA. Poi Daniele Bellasio, vice direttore del Foglio, e Mirta Merlino, giornalista, conduttrice della trasmissione di Rai 3 Economics. Esatto. Economics, salve. Diciamo, visto che abbiamo detto Luis è anche Economics. Collabora con Il Mattino, oggi mi sento così un po' berlusconiano, anch'io battute spesse. Ha scritto saggi di economia per la Spelling e Kupfer, tra cui La Moneta e Gli Affari Nostri. Io partirei da una cosa curiosa. Il quotidiano dell'opposizione moderata Europa, l'ex organo della Margherita, oggi uno dei giornali del Partito Democratico, ha fatto un rimprovero con minaccia naturalmente si fa per dire, penso, una minaccia politica, alla platea. Ci sono anche le platee, certo, ieri c'era la Marcegaglia protagonista, poi Berlusconi che le ha un po' cercato di rubare la scena, d'altra parte il Presidente del Consiglio, ma poi c'era questa platea che applaudivano come pazzi, no? Brunetta è giù, ovazioni, tutti in piedi. Tremonti, giù, ovazioni. La barra dritta dei conti dello Stato, ovazioni. Le prime file erano un po' come a Vicenza, così, insomma, sull'imbarazzo, non volevano eccedere in tifoseria, ma la platea era proprio scatenata. Allora, dice, un discorso a parte, meritano le centinaia di entusiasti, ironizza Europa nel suo editoriale di oggi, che ieri a Roma si sono scatenati in ovazioni per i passaggi più trucidi del discorso presidenziale. Lode alla Marcegaglia, dice, la Marcegaglia ha riscattato qualche tenerezza di troppo degli ultimi mesi con un discorso di verità sulla crisi, e ne parleremo tra poco, e con uno scatto d'orgoglio personale contro il patetico macismo del Premier, la storia della solita battuta sulle vallette, le veline. Dovrebbe però spiegare ai propri associati, la Marcegaglia, scrive Europa, che nel loro futuro non c'è sempre solo Berlusconi, qui arrivano i guai, Prima o poi la ruota gira e dunque capiterà loro di avere a che fare con qualche altra specie di politica e di governi. E dice, noi abbiamo mostrato maturità con gli imprenditori, li abbiamo aiutati, li abbiamo dato una mano. No, abbiamo pagato anche un prezzo per questo, dice sempre Europa. Può anche darsi, questa è la conclusione, che il prossimo centro-sinistra vincente, e ci sarà, non dubitino che ci sarà, non abbia tanta voglia di pagare prezzi per conto di platee imprenditoriali così unilaterali. Anzi, senza può darsi, è sicuro che sarà così. Come a dire, quando torniamo al governo, per le imprese sono... Non so se è il modo migliore di tornare al governo, di prendere i voti degli italiani, questo dire agli imprenditori che saranno bastonati. Comunque è il modo scelto dall'editoriale di Europa. No, che ne anche pensa? Perché io c'ero in mezzo alla platea, sinceramente, a parte Brunetta, che effettivamente ha riscosso, direi, quasi automaticamente un grande applauso, poi... Ho sentito in altre circostanze maggiori ovazioni, quindi mi è sembrato un po' esagerato. Beh, ma lei stava sicuramente nelle prime file, perché è un giornalista autorevole. No, stavo a metà, là dove si possono allungare le gambe. Bisogna andare nel loggione per capire lo stato d'animo di un teatro. Però, Mirta Merlino. Io penso che sia vera la cosa degli applausi, nel senso che certo i ministri, le ovazioni non tutti, Brunetta è stata l'unica ovazione vera, però... tu all'inizio dicevi Vicenza non era stata un'altra Vicenza. Fate un torto a Tremonti, perché anche Tremonti ha avuto un'ovazione. Non era un'ovazione, era un applausino. Abbiamo il sonoro, vorrei far vedere. No, di Tremonti no. Peccato. Però fidati, era un applauso normale. No, la cosa vera però che tu all'inizio dicevi, io mi aspettavo un'altra Vicenza in fondo. E la novità forte rispetto a Vicenza è che a Vicenza ci fu grande freddezza, grandi sguardi di imbarazzo. Questa volta qui, tranne qualche prima fila, ma nemmeno tanto, invece Berlusconi è stato stra bene accolto ogni volta, anche nei momenti più trucidi tra virgolette, nel senso di quelli un pochino appunto come dicevi tu spessi di battutaccia, alla fine insomma grande accoglienza. Anche la Marcegaglia sulla velina 4 ore dopo si è risentita, lì ha fatto un sorrisino, è stata buona e brava, quindi comunque l'accoglienza Confindustriale è stata ottima. Ma a Vicenza la partita politica era aperta, sì. Qui è chiusa, quindi... giudizio effettivamente inconfutabile. Sì, poi il presidente di Confindustria allora veniva un po' visto come una sorta di antagonista a Berlusconi, oggi invece la Marcegaglia ha costruito una leadership dell'associazione degli industriali diciamo più equanime, penso non si corre possa il rischio diciamo non... Beh, comunque nel suo discorso ha anche detto delle cose che sicuramente al Presidente del Consiglio non hanno fatto piacere. Infatti non ha risposto. Per esempio, se io fossi stato un giornale di sinistra oggi... Cisnetto è indisciplinato oggi, garanzia di buona riuscita della trasmissione. Com'è la faccenda? Se io fossi stato un giornale di sinistra oggi non avrei attaccato Berlusconi per le veline o per le battute poco costituzionali, ma avrei attaccato Berlusconi perché sull'unico vero punto... sul quale diciamo la relazione della Marcegaglia è stata oggettivamente ruvida, anche se poi con una contraddizione, perché se tu dici a un governo che non ha fatto le riforme, anzi pur non accusandolo esplicitamente sai benissimo che quel governo ha teorizzato che durante la crisi non bisogna fare le riforme, tu nonostante questo glielo chiedi riforme, beh a quel punto dovresti dargli un voto complessivo un po' meno alto. Ma detto questo, comunque su quel punto Berlusconi non ha risposto, quindi non ha detto sì le faremo, no non le faremo. Ma lei queste cose le ha scritte su un giornale di sinistra, sul Foglio? Ah beh, scusa. Non capisco che dice se avessi un giornale di sinistra. Se dirigessi un giornale di sinistra, diciamo, se avessi come vorrebbe dire... averlo tutto suo, ci smette il giornale. Dunque. Allora, andiamo adesso alle cose serie, perché effettivamente 24 ore, il giornale della Confindustria, diretto da Gianni Riotta, arrabbiato, immagino, per come stava prendendo... la slavina dell'informazione, giustamente ha aperto, unico tra tutti i giornali, sulla Marcegaglia, riforme subito per battere la crisi. Ora io vorrei che ci spogliassimo tutti diciamo dei nostri pregiudizi, che sono ampi, cospicui, insomma robusti, e rispondessimo a Mirta Merlino a questa domanda. C'è un elemento di... Io sono per le riforme, così, perché per natura sono per la politica in movimento. Mi sembra che la politica in stasi sia come innaturale, insomma, comporti poi fenomeni rapidi di marcescenza, in particolare in un sistema come quello italiano. Però l'argomento per cui adesso rimettere in discussione l'età pensionabile nel momento in cui la cassa integrazione... Insomma, in un momento di crisi anche psicologica così forte, così diffusa, non so, mi sembra che abbia un suo fondo di ragionevolezza. Sì, però ci sono delle cose ineludibili, cioè il tema pensioni, far finta che non esiste in questo paese ormai è veramente impossibile, nel senso che tu giustamente dici la cassa integrazione, però è anche vero che quando il nostro welfare è così tanto sbilanciato sulle pensioni, la Marcegaglia ha dato un dato, il 16% sulle pensioni a fronte del 9,5% di PIL degli altri paesi avanzati. Beh, quando ci sta questo sbilanciamento così forte, alla fine, perché i soldi sono pochi, tutti gli altri soldi per dare invece poi aiuti a chi perde il lavoro diventano meno, cioè quando il welfare è così risucchiato dal tema pensioni, il problema si pone, per cui certo il momento è difficile, però è anche vero che forse nel momento difficile, come dice un po' la Marcegaglia, la gente è anche più disponibile a mettere in discussione lo status quo, perché capisce che per uscire dalla crisi bisogna fare delle cose, per cui l'idea di poter galleggiare ancora molto. Ieri sera parlavo col ministro Brunetta, appunto, che tra l'altro l'ovazione l'ha avuta anche un po' per quello, perché come tu dicevi è un po' diventato il simbolo del fare, poi quanto riesca a fare veramente, però da questa sensazione di uno che ogni giorno si inventa una cosa nuova e va avanti. Brunetta diceva sì, entro l'anno bisogna che l'affrontiamo, cioè effettivamente loro questo macigno complicatissimo dal punto di vista politico, superato lo scoglio elettorale europeo, lo dovranno affrontare, perché non è più rinviabile. Su questo penso che Marcegaglia abbia ragione. E anche l'altra cosa che ho trovato interessante della Marcegaglia è che quando lei fa pesare sul conto del Premier il consenso come dire la molla per poter cambiare il paese, è una cosa giusta, perché questo è il problema un po', che la sensazione che abbiamo avuto anche a causa della crisi economica è che questo governo questa volta ha pensato che vivere bene con questo grande consenso, con i sondaggi, è un bel modo per star lì fermi e aspettare e vedere cosa succede. Invece se tu c'hai un consenso così lo devi usare, perché non è che il consenso è un problema di vanità di Berlusconi, è un problema poi che deve in qualche modo darti la possibilità di cambiare il paese. Quindi lì è il punto vero, secondo me, sulla cui la Marcegaglia c'ha ragione e ha messo sul tavolo una motivazione seria. Cioè lei continua a raccontarci tutti i giorni quanto è amato, quanto nonostante i giornali che danno addosso continua a crescere il suo consenso nel paese, benissimo, lo metta sul tavolo e lo utilizzi. Sì, utilizzando il consenso, non so cosa ne pensa Bellasio, naturalmente si rischia di perderlo. Ecco, il consenso invece, sì, però questa volta c'è una scusa. È come investirlo in CCT oppure investirlo, diciamo, in borsa. Ecco. Il rischio fa parte della... Però questa volta c'è una forte giustificazione all'agire, cioè a usare il consenso, appunto la crisi. Tra l'altro il problema dell'Italia non è tanto che ha bisogno di fare le riforme per uscire dalla crisi, ma l'Italia ha bisogno delle riforme a prescindere dalla crisi. Il problema è come stavamo prima, come stava il nostro paese prima della crisi, cioè che non cresceva, era crescita zero, quindi la crisi ha semplicemente aggravato una situazione in cui noi già eravamo. La crisi è la scusa buona per poter usare quel consenso per correre qualche rischio in più, proprio perché ci costringe a fare delle scelte. Io penso che in questo il discorso della Marcegaglia sia stato molto utile, ma sia soltanto il primo di una serie di atti cui il governo deve prestare attenzione, perché tra una decina di giorni ci sarà poi il discorso, le considerazioni del governatore della Banca d'Italia Draghi, dove secondo me anche in quel discorso verranno degli spunti in favore delle riforme economiche. Dal congresso della CISL sempre di ieri anche lì è venuto uno sprone a fare le riforme. Insomma, sembra un po' come se la fase di emergenza, ok, caro governo, l'hai gestita bene, la strategia del non esagerare negli interventi statali ti ha permesso di tenere i conti buoni, però adesso c'è un cambio di fase, e questo discorso della Marcegaglia tende proprio a segnare questo cambio di fase, e secondo me, come dicevo prima, sarà seguito da un'importante presa di posizione del governatore Draghi. Cioè un 1-2? Un 1-2 nel senso che è dettato dai fatti, perché siccome sta per arrivare la ripresa, io penso che i poteri cosiddetti... Non esagerare. Io penso che... per quello che si vede, per il prezzo del petrolio... L'ultima calendarizzazione è stata infausta lì durante l'assemblea della Confindustria, 2013. Hanno parlato del 2013. Però il prezzo del petrolio, la ripresa persino del mercato immobiliare americano, sono segnali che, al di là dei dati che sono spaventosi, ma quando si paragonano i dati di adesso o i dati degli ultimi mesi a quelli dell'anno prima americano oppure della media europea, è chiaro che sembra uno sfacello. Guarda che la crisi è iniziata a metà del 2007, certo. Quindi i dati dati dei primi mesi del 2008, sì, già sì, però comunque, l'America ancora per noi in particolare. Però l'America e alcuni paesi europei ancora tenevano. No, la ripresa c'è, ma c'è in Cina, c'è nell'Asia, cioè esatto. Il prezzo del petrolio è aumentato perché la Cina è tornata a comprare il petrolio a qualsiasi prezzo come accadeva prima, c'è l'acciaio che è tornato a essere comprato dai cinesi, ma è una situazione che riguarda là, prima che si trasferisca in Europa e in particolare prima che si trasferisca a noi. Ma quando cominciano i cinesi a comprare le nostre merci? No, non li, perché no, loro, la loro ripresa... Ma non consumano niente, neanche un pacco di fiammiferi. No, non è vero, Ferrara, la loro ripresa si sta spostando dal modello tutto esportazione al modello dei consumi interni, che gli consente di risolvere problemi sociali e potenzialmente politici, e quindi ha una doppia valenza, una economica e una di tipo... diciamo così, geopolitico, perché questa cosa creerà le condizioni di una sorta di continuità, di stabilità sociale e politica della Cina che gli consentirà di giocare un ruolo straordinariamente importante nello scenario globale. Quindi la Cina riprende, ma gli effetti sull'economia generale della ripresa cinese sono molto diversi da quegli effetti che c'era quando il modello cinese era tutto esportazione, perché in quel caso si metteva in moto un volano economico diverso. Noi che loro cominciano a comprare i nostri prodotti è lenta, loro hanno bisogno di consumare sulla, i loro. Sulla ripresa è nato da un'osservazione di Bellasio. No, io intendevo dire questo, che la sensazione che stia per arrivare, diciamo, tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo, spinge una ripresa, spinge i poteri cosiddetti neutri, oppure le associazioni, a dire al governo: bravissimo, ottimo il consenso, ottima la gestione dei conti, buono non farsi prendere dal neo-keynesismo di questi giorni. Attenzione però che siccome sta per arrivare la ripresa, noi quei problemi che avevamo prima della crisi ce li abbiamo ancora adesso. Il mercato del lavoro, le pensioni. La Marcegaglia ieri ha usato una parola che fino a qualche giorno fa era veramente proibita: liberalizzazioni, anche sì, perché veniva sì, collegata. È riemersa questa cosa che vuol dire liberare dal corporativismo gli ordini professionali. Insomma, c'è come un tentativo di svegliare il che governo. Sono un po' quelle cose come ridurre i parlamentari, diciamo che... Beh, sì, forse sì, però a volte si può fare qualcosa. Per esempio, anche il precedente governo, sotto slogan delle liberalizzazioni, due o tre cosette. No, ma soprattutto con una parola d'ordine per un bel po' di tempo e poi scomparsa dal dibattito. Ha ragione lui, dopo mesi e mesi per la prima volta si risente. Perché è stata travolta dalla crisi finanziaria. A proposito di parole, non ha usato invece la parola recessione, non ha messo un numero qualcuno sulla caduta della produzione industriale. No? Come? Qualcuno ha un telefonino acceso? No? Direi di no. No. Bene. Dicevo che non ha usato per nulla la parola recessione, non ha assolutamente... citato alcun numero della caduta, tra l'altro straordinaria, della produzione. Negli ultimi 16 mesi abbiamo perso 6,75 punti, cioè dal dicembre 2007 al marzo 2009. Se accorciamo e andiamo agli ultimi 6 mesi sono 15,6 punti, se andiamo agli ultimi 3 mesi sono 21 punti di caduta della produzione industriale. Allora, siccome la produzione industriale è, come dire, sangue del suo sangue, perché è roba che riguarda gli industriali, le imprese, non è che è una cosa generale, il PIL è un dato più complessivo dove entrano molti altri fattori, ma qui stiamo parlando di fatturato, ordinativi e produzione industriale, cioè roba che riguarda esattamente il core business, diciamo così, della Confindustria. È mai possibile che lì non ci sia stata, diciamo, una certa spietatezza nell'autoesaminare la condizione? Perché troppo blanda è stata. No, perché riforme per i governi, va bene. Credito ai banchieri, ma anche alle imprese qualcosa vorremmo chiedere o no? Va bene. Bene, 800 24 00 24. Qui in studio si arde dal desiderio di parlare di come la presidente di Confindustria ha picchiato le banche. In genere, diceva prima Cisnetto, picchia i sindacati, stavolta ha picchiato le banche. Però noi abbiamo Luigi da Roma e vuole parlare dei consumi, Fabio da Roma delle pensioni e Michele da Genova vuole ancora fare una annotazione sul numero fatto ieri da Berlusconi. Michele? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Più che il numero fatto da Berlusconi, volevo riferirmi anche alle sue parole, nel senso che lei non ha trovato nulla di nuovo in quello che ha detto Berlusconi. Io invece ho trovato molte cose nuove rispetto all'ultimo episodio, quello di ieri, cioè rispetto al portare in piazza gli affari privati di Berlusconi, l'ha portato lui, e anche annunciare l'audizione in Parlamento su quello che sono i suoi fatti giudiziari. in funzione di questo l'episodio di ieri in Confindustria lo trovo, come dire, un rafforzamento rispetto a questa sua strategia, che è quella poi di arrivare alle europee a contarsi col rischio poi successivo di crisi di governo. Oggi il governo Berlusconi potrebbe fare le riforme, ha i numeri per farle, non le fa, perché non le ha fatte, e fondamentalmente il Presidente del Consiglio, a mio parere, in questo momento ha, come dire, ha avviato una personale battaglia che rischia di essere controproducente per l'Italia. Ha vinto le elezioni, le ha stravinte, ha consenso in Italia, che governi. Che governi, c'è lo Dalfano. Bene, non bene, lei è d'accordo con Emma Marcegaglia, mi sembra commendevole. Fedele da Verona? Io volevo parlare, buongiorno dottore, delle liberalizzazioni. Sì. Io credo che anche lì il consenso di Berlusconi, come diceva, va in base al fatto di non fare nessuna liberalizzazione. Non può farle perché il Bersani sulla liberalizzazione ha pagato. Ha pagato tutto quello che poteva pagare. Sono bastati 24 tassisti, due farmacie chiuse in mezz'ora e nessuno ha più fatto niente. E ha perso un sacco di consensi Bersani. Cioè, lei insiste, Fedele, sul paradosso per cui ha un grande consenso proprio perché non fa le riforme e tutti gli chiediamo di fare le riforme mettendo in pericolo il suo consenso. Vabbè, è una delle leggi della politica. Grazie. Fedele, Luigi da Roma? Sì, pronto. Buongiorno, dottor Ferrara. Buongiorno. Il mio intervento era finalizzato... Cioè, mi ritengo veramente offeso nella mia intelligenza di cittadino, sì, talvolta pensando che ci sono, cioè le riforme devono essere fatte soltanto esclusivamente a scapito dei lavoratori. Questa è la richiesta da parte di tutti. Non si rendono conto che, ripeto, la mia piccola conoscenza dell'economia, il sistema non funziona perché non c'è nessuno che compra, ma perché la gente non compra? Perché non ha i soldi per comprare. Fino a quando gli stipendi saranno di 1000, 1200, 800 euro al mese? E dico, ci smetto a sentire il suo dire, scuote la testa, perché? Scuoto la testa perché guardi nei numeri della crisi, e io sono di quelli che non la sottovaluta, anzi la caduta dei consumi è il minore dei problemi, fortunatamente per certi versi, perché si sono ridotti, ma molto, molto meno di quanto non sia caduta invece la produzione e tutte le altre variabili economiche. Questo significa che gli italiani nel loro complesso, evidentemente, poi ci sono situazioni ovviamente borderline, ma nel loro complesso hanno potuto attingere al risparmio accumulato nel passato e quindi hanno mantenuto sostanzialmente il livello di vita e di consumi che avevano prima della crisi. Eventualmente alcuni consumi non obbligatori, di quelli di sostituzione dall'automobile al frigorifero, sono stati rinviati, ma non per mancanza di denaro, ma per la preoccupazione di non fare un passo sbagliato in un Fiorella da Bologna. Fiorella, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamo per dire che non so, adesso anche i giornalisti che avete in studio non so se hanno il senso reale del paese, perché allora le dico, mia figlia lavora nel settore metalmeccanico, è impiegata. Sì. Mio figlio e mio marito sono artigiani. Sì. Allora, la situazione è questa, secondo me, di moltissime famiglie, oltre a quelle che hanno perso il lavoro. Allora, di mese in mese, un'azienda che prosperava moltissimo, di mese in mese l'azienda dice vabbè, adesso vediamo, rinviamo per il momento, cerchiamo di non fare la cassa integrazione, fa tutte queste operazioni per cercare di non farle, devono fare le ferie, chiuderanno tutto agosto, cioè non si sa che cosa questa azienda, come tante altre, possa poi alla fine mantenersi il lavoro. A livello artigiano, di giorno in giorno non sai se ti chiameranno, cosa farà, cioè la situazione anche di chi ancora sta lavorando è quella che non sa se domani lavorerà. Allora io chiedo, come possiamo pensare di dar voce a quello che il presidente Berlusconi sta dicendo? Dobbiamo, il diluvio è passato e stiamo già cavalcando di nuovo la cosa, tutto sta andando se non per il meglio, comunque sta tutto procedendo regolarmente. Allora io chiedo che qualcuno mi risponda come fanno le famiglie in generale a uscire da questo stato grave di incertezza e forse anche d'angoscia. Grazie Fiorella. Mirta Merlino, la storia delle previsioni, il 2013, com'è la faccenda? Beh, le previsioni non riesce a fare nessuno, è stato chiarissimo fin dall'inizio di questa crisi. Io non sono ottimista, non penso che si esca quest'anno alla crisi, ma non perché naturalmente scambia la crisi. È ovvio che la prima fase, quella lì della paura, dei mercati che crollano, è passata e l'emergenza è passata, e quindi sono d'accordo con lui quando dice, adesso con il nostro collega Bellasio, quando dice le riforme, perché effettivamente in questa fase diversa di crisi in cui bisogna riorganizzare le forze, bisogna affrontare le emergenze, naturalmente bisogna farlo in un modo diverso, perché la signora giustamente c'è le famiglie, ma non è che i problemi della famiglia li si risolve dando sussidi a tutti, cioè è chiarissimo. Ma io dico, all'origine di tutto c'è la questione del credito, no? Sì. Facile. All'origine di tutto c'è il credito facile e poi il credito impossibile, cioè il credito paralizzato, perché quando tu eroghi troppo facilmente il credito e ti metti in gioco in modo vasto, globale, come è successo attraverso i subprime, il credito immobiliare, eccetera, poi dopo succede che non si fa più credito a nessuno. Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno, come c'è scritto nei cartelli. Infatti è stata fortissima la cena su questo. Però la storia delle banche, vogliamo analizzarla e capirla un po'. Bellasio, com'è questa faccenda? Ma diciamo che all'origine di tutto è vero che c'è la questione del credito, ma se pensiamo alla crisi solo per l'aspetto finanziario. Io penso che invece all'origine di tutto, dal punto di vista della produzione, ci sia il panico. Cioè è stato un fattore centrale che Tremonti ricorda sempre, è stato il fallimento di Lehman Brothers. È stato il momento in cui, secondo me, la crisi da finanziaria si è trasformata in crisi dell'economia reale. Perché? Perché il fallimento di una banca così grande ha portato il panico dai mercati, cioè dalla borsa, all'economia reale. E allora le aziende che cosa hanno iniziato a fare? Oddio, arriva il diluvio, l'apocalisse, devo ristrutturarmi, devo cogliere, perché c'è questo aspetto di cinismo, l'occasione del panico e della crisi mondiale per fare quelle ristrutturazioni aziendali che forse io comunque avrei dovuto fare. Ed è per questo che anche i governi devono fare lo stesso ragionamento, per affrontare meglio eventualmente le successive. Io penso, ma mi rendo conto che è un'opinione molto controcorrente, però io penso che se il panico non fosse stato diffuso sulla stampa internazionale, sui mercati finanziari, anche in parte per favorire una correzione molto netta sulla questione del credito, cioè per dire a tutto il mondo guardate che avete esagerato, la crisi dal punto di vista dell'economia reale sarebbe stata meno grave. Cioè è vero che poche grandi banche hanno commesso errori enormi di gestione del credito e peraltro hanno pagato molto poco, perché molte sono state salvate e molti dei manager di quelle banche che hanno compiuto quelle scelte sono ancora al loro posto negli Stati Uniti e in Europa. Questo è sicuramente vero, ma a quei tipi di banchieri è servito dipingere la crisi come apocalittica, perché se tutti sono stati cattivi il sistema andava salvato in toto. Però attenzione, noi abbiamo una nostra caratteristica di questa crisi tutta italiana, e cioè il fatto che quel credito facile di cui abbiamo parlato, che ha creato un'enorme quantità di debito sul terreno finanziario, altrove è servita per fare le operazioni finanziarie gigantesche, i derivati e quant'altro. Qui il credito facile è stato utilizzato per mantenere in vita milioni di piccole aziende borderline che senza quella condizione, diciamo, non normale di credito non sarebbero state più in vita. Adesso questo meccanismo, questa cosa si è disvelata, ci sono quindi milioni di imprese che rischiano di chiudere o che hanno già chiuso, che rischiano di chiudere, non è semplicemente perché hanno avuto il panico o hanno preso l'occasione, che peraltro se così fosse sarebbe un'ottima cosa, ma c'è un dato reale. Per questo che io penso che la crisi da noi durerà di più e sarà profonda non nel campo finanziario ma in quello dell'economia reale, perché noi avevamo tante imprese, avevamo un capitalismo italiano che si è mantenuto diciamo in maniera drogata, adesso la droga non c'è più e questi nodi vengono tutti al pettine. Per questo che io penso che sia la Confindustria da un lato sia il governo dall'altro dovrebbero guardare in faccia questa realtà, perché l'idea che finisce una crisi di tipo che si spera sia congiunturale e poi dopo torna tutto come prima è un'idea sbagliata. Ci chiama Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, E siccome la Confindustria è il nostro editore, ma anche per rispetto a una voce, a un interlocutore, naturalmente noi lo facciamo irrompere. Paolazzi, ci dica. Buongiorno. A tutti. E anzitutto grazie dell'ospitalità e grazie Prego. Di esservi così occupati di questa importante relazione. Quello che volevo sottolineare è che mi ha stupito un po' un'affermazione che ho sentito da parte di uno degli ospiti, e cioè del fatto che non è stato detto molto in questa relazione su quello che è l'impegno delle imprese o quello che dovrebbero fare le imprese. E beh, quello Enrico Cisnetto, che è il più cattivo di tutti noi. Saluto Cisnetto. Invece mi pare che la cifra di questa relazione, peraltro in un anno molto difficile e complesso, e sia stato appunto di dire anzitutto quello che devono fare le imprese, prima ancora di chiedere e indicare al governo quello che il paese necessita per ritornare a crescere, perché ha ragione chi diceva poco fa che noi siamo entrati in questa crisi crescendo pochissimo e stiamo andando indietro nel confronto internazionale, e da lì tutta la questione salariale, l'impoverimento e quant'altro. Abbiamo detto, il presidente Marcegaglia ha detto, quello che le imprese devono fare, e ha parlato di governance, che è una questione spinosissima per le imprese, ha parlato di innovazione, ha parlato di internazionalizzazione, ha parlato di cambiamento anche delle carriere retributive, proprio in relazione alla necessità di prospettare una più lunga permanenza dei lavoratori in azienda, se cambiano le regole pensionistiche. Cioè, francamente non penso che questa relazione abbia detto quello che devono fare le imprese, anzi si è fatta carico di bene, tutto. È un'obiezione, ciò che è un'obiezione chiara in favore della piattaforma Marcegaglia, che comprendeva anche i doveri delle imprese. Breve replica di Cisnetto, perché devo dare le strade in diretta. C'erano 70 righe c'è il famoso casello di Melegnano, 38 pagine. C'erano 70 righe su 38 pagine ed erano tutte indicazioni più che giuste, ma che come dire, valevano anche prima della crisi, cioè la dimensione, la governance, tutte le cose che tu hai ricordato sono tutte cose che ci sono nella relazione, sono corrette, ma sono sempre state dette anche in tutte le relazioni. Ma anche le pagine, ma anche le righe sulle riforme non sono molto di più delle 78. Se uno guarda e divide, diciamo, la relazione, scopre che più o meno è qui ripartita. C'è stata un'analisi sulla crisi, c'è stata un'analisi sulle nuove regole del capitalismo, c'è stata un'analisi sui nuovi mercati, c'è stata un'analisi sulla sicurezza del lavoro, il mezzogiorno, la legalità, e quindi c'è, uno dice 78 righe su tutta la relazione, e sono 78 righe anzitutto che pesano moltissimo, e in secondo luogo che non sono diverse in termini di stanza da quelle che hanno preso le altre parti. Dottor Paolazzi, è chiarissima il contenuto della sua obiezione, la controreplica anche di Cisnetto sulle quantitativa, ma penso appunto che ci sia un problema qualitativo. Evidentemente Cisnetto non è soddisfatto dell'equilibrio complessivo della relazione Marcegaglia, e grazie dottor Paolazzi. La svolta della CISL, sì alla riforma delle pensioni. Questo è il titolo di prima pagina del giornale di oggi. Bonanni rompe un tabù sindacale. Che vuol dire? Ci dobbiamo credere? Diciamo, Bonanni era sicuramente quello più vicino a rompere questo tabù. Poi bisogna vedere cosa significa quando ci si mette al tavolo. Certo è che fa un po' impressione vedere il sindacato che dice, o comunque insomma non si sottrae a una discussione di questo genere, e un governo che dice non è il momento perché c'è la crisi. C'è stata un po' un'asse ieri, scavalcato a destra, diciamo. Hanno fatto un po' un'asse ieri Marcegaglia e Bonanni, nel senso che lei poi si è andata al loro congresso, cosa non frequente per niente. Si sono dati un po' la volata uno con l'altro, e Bonanni ha fatto molti distinguo, insomma, da qui a dire che la CISL fa la riforma delle pensioni, insomma, ce ne vuole, però certamente, insomma, ha detto parliamone, per cui si aperto una... Però secondo me lì c'è anche un fattore che dovrebbe essere un fattore anticiclico, diciamo, che apre a una ristrutturazione, è la storia della riforma della contrattazione, importante, no? Sì, assolutamente. Lì sul modo in cui... Infatti c'è stato un passaggio importante anche in relazione alla Marcegaglia su questo, lei l'ha esposta come una grande vittoria, però per esempio anche rispetto alla CGIL, mentre il governo ormai la ignora, cioè ha capito che si può fare senza la CGIL ed è ben felice e va avanti tranquillo, la Marcegaglia ha fatto un appello, gli ha chiesto di tornare al tavolo. Le fabbriche poi ci sono quelli della CGIL. Esatto, quindi insomma lei su alcune lei cose ha fatto delle bisogna aperture. Però stare attenti agli slogan, perché Vero che riforma delle pensioni adesso è uno slogan che sta ritornando. Ieri c'è stata anche una lievissima apertura di Tremonti che ha detto a tempo debito, prima o poi. Però bisogna intendersi, come diceva prima Cisnetto, su che cosa? Perché a la tempo CISL... credito. A tempo credito. Visto il periodo. No, la CISL intende, vuole una riforma delle pensioni per poi dare pensioni più consistenti, più pesanti ai pensionati. Perché la CISL, e come gran parte dei sindacati oggi in Italia, rappresenta soprattutto i pensionati. Quel tipo di riforma delle pensioni non è detto che sia la migliore, anzi, e sicuramente non è quella che vuole la Confindustria, che invece vorrebbe una riforma delle pensioni per intanto aiutare i conti pubblici dello Stato e semmai usare le risorse per altri tipi di riforme. Guarda Bellagio, che se fai una riforma vera c'è spazio sia per l'una che per l'altra, esatto. Cosa, se è vera. Se tra è l'altro, vera, anche per rispondere a un radioascoltatore prima, quando si dice riforme, non è che si parla solo di riforme contro i lavoratori, anzi, per esempio, delle vere riforme del welfare sicuramente ce n'è bisogno in Italia, perché è vero che la cassa integrazione in qualche modo ha funzionato in questo periodo, però sappiamo benissimo che prima che tu veramente ne benefici della cassa integrazione passano mesi, quindi c'è un sistema di welfare italiano che non deborda come in altri paesi europei, ma che sicuramente non ha l'efficienza di cui si parla. Oh, anzi. C'è Flavio da Milano che pone un problema contabile, molto semplice, ma credo molto significativo. Insomma, i ritardi dello Stato nel pagare ciò, esatto, che devono alle imprese. Flavio? Sì, buongiorno a tutti. Sì. Eccoci. Niente, io volevo sottolineare un aspetto che mi sembra questa volta nella relazione della Marcegaglia non si è apparso, mentre era stato sottolineato. C'è anche questo, e allora sì, si vede, sì, che sono sentito bene. In ogni caso, mi sembra che sia una riforma veramente molto importante. Io ho lavorato 40 anni in multinazionali nord europee e tutte le volte che si parlava dei debiti dello Stato italiano si creava una forte ilarità, diciamo, tutti ci ridevano sopra, ecco. Infatti, noi, io penso che sia veramente un problema importante, perché muove diverse decine di miliardi qui. E quindi infatti è assolutamente inspiegabile. Anche per esempio ieri sentivo parlare Berlusconi, dice la burocrazia, ma è chiaro, non si possono aprire i cantieri perché c'è la burocrazia, ma non possiamo metterci d'accordo un po' tutti e vedere di ridurre questa benedetta burocrazia? La montagna di crediti, sto citando Emma Marcegaglia, delle imprese verso le pubbliche amministrazioni, la montagna di crediti è una patologia insopportabile. I ritardi nei pagamenti già gravissimi. Si parla di 60 allungati. Miliardi, quindi una montagna vera. Ma infatti, insomma, io non ho capito perché abbiamo inventato un meccanismo per dare soldi alle banche nella speranza che poi questi li diano alle imprese, quando quei soldi avrebbero potuto tranquillamente essere dati direttamente alle imprese a pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Ancora una telefonata, Giancarlo da Modena, che segnala un fenomeno curioso, interessante, un'autoriduzione di stipendio. Giancarlo. Esatto, la crisi porta a certe soluzioni, le soluzioni per chi vuole andare avanti sono anche quelle di ridurre lo stipendio a chi comanda e agli imprenditori. Noi siamo tre soci, l'abbiamo fatto per mantenere questo gap e questo lavoro ai nostri dipendenti. Se riusciamo ad andare avanti, riusciamo ad andare avanti, però io ho sentito ieri la conferenza stampa, ho sentito anche l'intervento del cavaliere Berlusconi, io sono Marcegaglia, benissimo, tutti bravi, però anche il signor Berlusconi dice io le riforme le voglio fare, il problema è che ho davanti delle montagne da scalare, perché il Presidente del Consiglio il lavoro e la volontà ce l'ha, perché è un imprenditore, come ha detto prima, lui deve raddrizzare la baracca. Probabilmente perderà alcune cose a livello politico, ma a livello imprenditoriale lui sta facendo il massimo, come ho fatto io per la mia ditta, voglio dire, sono riuscito a estrapolare, a trovare un sistema per avere la possibilità di mantenere i miei dipendenti. Questo io lo vedo come sono fiducioso e soprattutto ho diciamo così questa voglia di fare, di poter risolvere questa crisi. Bene, bene, bene, bene, bene. Ce ne fossero come lei, e questo è inevitabile che io debba concludere così. Va bene, abbiamo cercato di dire cose anche non scontate, chi era pro Marcegaglia, chi era critico su questa relazione, ho visto che anche nei giornali ci sono pareri molto diversi oggi. È stata un po' silenziata però questa relazione, perché vedi tante cose che sono state dette, sono venute fuori. Cioè, se io volessi fare un annuncio al mondo non inviterei mai Berlusconi. Esatto, bravo, perché la verità è che lei ha posto una serie di cose che proprio sono passate sotto silenzio totale. Sì, però no, diciamo la verità, insomma, poi il suo dovere lei l'ha fatto. Certo, Berlusconi è un primo attore, anzi è una prima donna, tant'è vero che si truccava anche ampiamente prima del suo fantastico discorso. Va bene, comunque, ogni sua chi mali pense, grazie a tutti, soprattutto e come sempre agli ospiti, a Enrico Cisnetto, a Daniele Bellasio, a Mirta Merlino, grazie ai radioascoltatori, in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrero, in regia Valerio Rocchetti, Peter Bescapè, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Mailog 2.0, che poi quel 2.0 io ancora non ho capito che ci sta a fare, però qualcosa significherà. Baci.